Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Estate, tempo di gialli, magari conditi con un po' di rosa e con tanta ironia, come fa Gabriella Genisi, autrice barese di Particolari Noir. Siamo al terzo libro, che si intitola Uva Noir, pubblicato da Sonzogno. Allora Gabriella, la tua protagonista seriale dei romanzi ritorna, insomma, si chiama Lolita Lobosco. Ci vuoi parlare un po' di lei? Lolita Lobosco è una donna del sud a tutto tondo. Lei ha un misto di origini siciliane, partenopee e pugliesi. A 37 anni dirige la squadra omicidi della questura di Bari. È una donna appunto passionale, come quasi tutte le donne del sud, molto procace, capelli lunghi, bellissima, occhi profondi e un carattere non sempre politicamente corretto. In questa nuova puntata, diciamo, della sua vita lavorativa e anche affettiva, perché si racconta molto della sua vita affettiva, ha a che fare con un caso piuttosto difficile dal punto di vista delle indagini, cioè l'omicidio di un bambino. Che cosa c'è intorno a questo omicidio, senza ovviamente svelare troppo? Intorno ci sono dei complessi rapporti familiari e anche dei coinvolgimenti poco chiari della mamma del bimbo, che ha frequentazioni malavitose e ha un passato piuttosto turbolento. Che cosa accade in questo romanzo? Come evolve anche il personaggio di Lolita? Vediamo che dal punto di vista sentimentale inizia ad avere una relazione più o meno stabile. Lolita non è un personaggio fortunato in amore. Lei è separata e ha una serie di piccole relazioni andate a male alle spalle. In questo libro si innamora, si lascia andare alla passione per un magistrato conosciuto in procura quando lei si reca per un caso nel libro precedente, e in questo libro sboccia l'amore fra tutti e due. Non sappiamo nel prossimo libro però se la storia continuerà, perché appunto non è fortunatissima in amore. Insomma, questa Lolita sembra essere un po' una Bridget Jones in divisa, in un certo senso. Potrebbe, un accostamento carino, devo dire. Sì, perché è un po' imbranata per certi aspetti, sempre a dieta come Bridget Jones, appunto, appassionata della cucina e presa da mille cose, da mille rapporti anche familiari, di amicizie, affettivi, per cui lei un po' si perde tra vita privata e lavoro. Io l'ho trovata un personaggio molto divertente, dotato anche di grande autoironia. In che modo ti può assomigliare questo personaggio? Ma devo dire che quando l'ho ideata forse non mi somigliava tantissimo, a parte la passione per il cibo, per la cucina e per i libri, cosa che tutte le mie protagoniste femminili hanno. E poi pian piano ci ho messo un po' di carattere, quindi questa passionalità, questo lato creativo anche. Ci sono dei giorni che mi somigliano al 90%, dei giorni al 10%. Tutte le storie di Lolita Lobosco sono ambientate a Bari, perché lei lavora nella questura di Bari. Ambientazioni di gialli e noir a Bari, mi viene in mente per esempio Gianrico Carofiglio. Insomma, Bari è una bella città dal punto di vista dei giallisti, insomma, può dare delle belle ispirazioni. Bari e la Puglia soprattutto hanno avuto una svolta letteraria, credo dal 1991, quando ci fu lo sbarco a Bari del Vlora, e quindi questa nave carica di storie che si è riversata, queste 20.000 storie da raccontare che si sono riversate a Bari e in tutta la Puglia, e da lì è ripresa la vera narrativa. Quindi si colora spesso di giallo, perché comunque cronaca nera, gialla ce n'è tantissima. Non mi piace occuparmi però solo di certi aspetti, ma mescolare un po' tutti gli ingredienti, perché ultimamente la Puglia è stata sotto i riflettori per il caso Scazzi e forse un po' l'occuparmi in questo libro di un caso che riguarda l'omicidio di un bambino è un po' per ricordare anche quello che è accaduto. Però la Puglia non è solo quella, non è solo un omicidio avvenuto in ambito familiare, è un insieme di altre cose, un puzzle di colori, di sapori che io racconto. Quindi ci troviamo il mare, il riso patate e cozze, la focaccia, l'omicidio in famiglia e gli affetti, gli amori, il calore familiare, tutto questo compongono il mio libro. E ci troviamo anche la lingua barese, ci sono non forme dialettali ma modi di dire tipicamente baresi che io ho ritrovato essendo nata a Bari, avendoci vissuto per 25 anni, per esempio quando ho letto "Ehi giovane" oppure "mi è venuta la nervatura", che è una cosa, un'espressione tipica barese, insomma mi sono messa a sorridere, l'ho letto con molto piacere questo libro perché mi ha ricordato proprio delle sonorità a me familiari, quindi insomma a te piace usare la lingua della tua città? Sì, in questo libro e negli altri libri precedenti utilizzo appunto un linguaggio parlato, che è quello parlato dalla maggior parte degli abitanti di Bari e provincia, perché da noi anche il plurilaureato, comunque nel parlare poi in famiglia con gli amici, utilizza un linguaggio un po' meno sostenuto, come dire, si lascia un po' andare. Non uso un vero e proprio dialetto, ma più una sorta di neo slang, unendo per esempio le parole, tipo Lolita chiama il suo amore appunto l'amore dolce mio, e io lo scrivo proprio così, l'amore dolce mio, come lo pronunciamo, perché noi usiamo un pochino unire tutte insieme le parole. Però diciamo che i tuoi libri possono essere letti da tutti, insomma non c'è bisogno di essere baresi per cogliere anche l'ironia del linguaggio. Sì, possono essere letti da tutti, infatti ecco, non, proprio per questo non è carico di espressioni dialettali. Devo dire che una cosa molto carina è che una ricercatrice dell'Università di Bari ha pubblicato un saggio che adesso i ragazzi studiano all'università sul linguaggio utilizzato nei miei libri, e questo mi ha divertita tantissimo perché è una sorta di italiano contemporaneo narrativo, è stato definito. I tuoi libri, i tuoi romanzi, diciamo giallo-rosa, giallo-ironici, hanno tutti un qualcosa in comune, la frutta nel titolo. Il primo libro, La circonferenza delle arance, poi giallo-ciliegia e ora questo Uva Noir. Come mai hai deciso di creare questo brand per i tuoi romanzi? La trilogia si chiude appunto con un Uva Noir. Mi sono ispirata alla frutta perché volevo appunto raccontare il sud, e la frutta è il simbolo del sud. Basta entrare in una qualsiasi cucina di una casa del sud e c'è sempre sul tavolo un'enorme fruttiera colma di frutta assortita, arance, uva, pesche, mele e quant'altro. E volevo rappresentare appunto i sapori intensi e gli odori che permeano questo paese. Basta passeggiare o fare una passeggiata in macchina per guardare questi alberi carichi di frutti, per esempio nella zona del Tarantino le arance, questi alberi addobbati quasi come se fossero alberi di Natale nella stragrande maggioranza dell'anno, oppure i ciliegi, i peschi, i mandorli. È una terra piena di frutta e quindi volevo rappresentare il sud in questa maniera. In Italia, diciamo, il mondo letterario è un po', non dico critico, ma insomma è un po' scettico a volte con le gialliste donne. Eppure, se pensiamo che insomma, c'è stata Agatha Christie, che è una delle più grandi gialliste di tutti i tempi, viene un po' da sorridere. Secondo te c'è un po' di pregiudizio nei confronti delle gialliste? Credo che ci sia un pregiudizio nei confronti dei gialli, perché ancora vengono percepiti come scrittura di genere, ma io credo che adesso i generi siano ormai liquidi, non esiste più un genere preciso. I miei non li ritengo nemmeno gialli o noir, io li ritengo romanzi di costume, perché appunto racconto una serie di costumi che ci rappresentano. Sì, in effetti in Italia non ci sono tantissime donne giallististe, però devo dire che è cosa difficile, perché innanzitutto sono le donne che leggono sempre, sempre più degli uomini. Io ho tantissimi lettori uomini e quindi questo mi fa ben sperare che anche le donne giallististe, non soltanto io, vengano ben accolte. Insomma, anche se come dicevamo la tua protagonista è una Bridget Jones in divisa, gli uomini si appassionano ai tuoi romanzi. Gli uomini si innamorano di lei perché lei è bellissima e ha questa caratteristica, come molte donne del sud, di avere delle forme generose e ha una quinta di reggiseno, e forse questo colpisce un po' l'immaginario maschile, per cui è molto amata dagli uomini, molto letta. In genere come ti nasce l'idea della trama di un romanzo? Da che cosa parti? Parto dal titolo. Se non ho il titolo non inizio. E poi si sviluppa la storia. Quando comincio a scrivere non ho soltanto una traccia mentale, ma non ho idea di cosa faranno i personaggi, di come si svilupperà la storia. E poi pian piano le parole vengono da sole, i personaggi come se fossero muniti di energia propria, si muovono e si intrecciano fra loro e danno vita alla storia. Ma decidi fin dall'inizio come andrà a finire? No, non decido, no. Tra l'altro è una cosa carina che è accaduta per il primo libro, non c'era il morto, avevo già consegnato, però prima che uscisse il libro i diritti del libro sono stati venduti in Germania, ma la Germania ha posto una condizione, che ci fosse il morto. E quindi io, che avevo già finito il libro, e per un autore il libro è come un figlio, è perfetto, quindi non si vuole aggiungere neanche una parola, ho detto alla mia editor: il libro non lo cambio, adesso ci faccio un altro capitolo finale. Quindi mi sono inventata un doppio finale per i lettori che vogliono il morto. Solo che adesso chiaramente il morto lo inserisco già dal principio e già lo so, insomma. Dopo questa trilogia appunto ispirata alla frutta, che cosa darai ai tuoi lettori? Offrirò un nuovo caso di Lolita sul calcio scommesse. Il calcio scommesse, l'inchiesta sul calcio scommesse nasce a Bari, sviluppata da un'indagine della Procura di Bari, appunto. È un argomento di grandissima attualità, anche perché il calcio appassiona noi italiani, e quindi Lolita si occuperà di questo. Il libro dovrebbe uscire, penso, tra 6-7 mesi, ma devo iniziare a lavorarci a giorni. In genere i giallisti hanno un rapporto di odio e amore con i loro personaggi seriali, non so, penso a Camilleri con il suo Montalbano, prima citavamo Caro Figlio con il suo avvocato Guerrieri. Tu che rapporto hai con Lolita? Io l'adoro, semplicemente, forse perché sono soltanto al terzo libro, quindi non mi sono ancora stancata di lei, però ne sono innamorata. Grazie a Gabriella Genisi, ora in libreria con Uva Noir, la commissaria Lolì tra passione e delitti. Ricordiamo che fa parte di una trilogia iniziata con La circonferenza delle arance e Giallo ciliegia, tutto pubblicato da Sonzogno. Un libro che sicuramente vi farà passare delle ore piacevoli. Insomma, come dicevamo, si mettono insieme un po' il giallo, il rosa e l'ironia. Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.